di tornare a 2000 anni fa. Non si può negare l'esistenza di una fede, ma nascondersi dietro un pretesto porta l'instabilità. Odi, nessun pastore è nato soldato, e tu godi saper la melodi. Se mi agnello ti ho sacrificato, sarà nera per voi. Io non so più che carne brucia dietro una candela, non saprò che sapore avrà. Facciamo il la. La. Oggi sono andato in crociera. Per venire in calcoli, in pratica di calascio, per vedere che suonavano. Suonavano in crociera oggi? Suonavano in crociera. Il pomeriggio? Sì, il pomeriggio. Perché dovevano suonare insieme a 15 gruppi, non so che male, no? Cioè, andiamo lì e loro praticamente suonavano da soli. Perché comunque dovevano dire un fatto. Era stata con loro che volevano partire, avevano organizzato, fanno il giro i coglioni, ma con le due chiavi, hanno detto vabbè, fate lo stesso. Tanto non hanno chiamato. Eh? No, mi hanno chiamato, però sono cazzo di 3 a 2, tutti quanti. A quel punto lì è stato. Vabbè, ma sì. Non è che poi Ma niente, noi, però alla fine penso che sia la cosa che sono fatto è stata riorganizzata al bus. Allora sono la stasera, sono andato al bus per fare delle cose che sono state. Poi in un modo che non avevo sul cazzo, per me se li fanno suonare gli altri. Allora io ho detto, poi ci sono tutti non so, da dove arrivati la allora gli ho detto, vabbè, ho fatto la chiarotena e gli ho detto, sentite un po'. Se ti vuole, costruire i professori e questi quadrati se lo ti dico. Thank you.